ma nipote mia cara, non mi seccate più. Che posso fare nello stato presente? Signori, allegramente, son guariti gli pazzi, e appena solo in senno ritornati, in pace e in allegria si son sposati. Che dici? Oh, tradimento! Oh, che gran sorte! Mi son tolta una spina! Ecco la mia sposina, ecco la mia Violante! Come? Cessi ogni dubbio dell'esser mio! Cangiai con Roberto mio servo! Il nome è stato! Ne volli mai svelarmi, or per far col mio sposo una dolce vendetta! Marchesino, vi prego a perdonarmi! Io son Maria! Io vi trovo mai la morte! Non più! Cessate, il caro abbraccio, conoscervi farà l'affetto mio. Se piace il signor zio, il fedele Ramiro. Anch'io, se si contenta, vorrei. Bene, ho capito. Vostro sposo era mio, e tu sia Nardo. Oh, bravo! Di più bramar non so. Questo è il piacere. Goda chi vuol godere, si sposi pur chi vuole. Io pur mi sposerò, quando l'altra Sandrina troverò. Sarà debole ognuno in ogni stato, della vostra bontà, del vostro cuore.